E questo è qualcosa che rimette insieme vincitori, vinti, spettatori, giocatori, sapendo che ciascuno di noi gioca tutte le parti, spesso contemporaneamente, e deve accettarlo, anzi, deve farne uno strumento di vita bella. Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Intervista a Corrado Passera di Fabio Tamburini. Voce di Tommaso Minniti. Riduzione radiofonica di Marco Rampoldi e Guido Scotti. Pagine per il futuro torna la prossima settimana.